Radio Cerrano presenta Carta Bianca. Eleonora Marchini racconta interviste e approfondimenti su fatti e personaggi della nostra terra. Buonasera agli ascoltatori di RadioCerrano.net, la radio in streaming delle Terre del Cerrano. Sono Eleonora e questa è la seconda puntata della trasmissione Carta Bianca, Eleonora racconta. Questa sera siamo con un gruppo rock che si chiama i Radio Vintage. Questa sera siamo al Lido Bella Vista di Roseto degli Abruzzi. I Radio Vintage sono un gruppo di 5 ragazzi che fanno musica rock italiana, straniera, un po' tutti i generi musicali, fino all'anno prima. Questa è la particolarità, il vintage, perché si fermano non alla moda del momento, non al tormentone dell'estate, ma a tutto quello che è precedente dagli anni 50, il rock and roll, twist, dance anni 60, 70, 80 e 90, insomma un po' di tutto. Innanzitutto partiamo con il conoscere questi ragazzi, e che cantano un po' tutti, devo dire, no? Quello che ho scoperto prima parlando con loro, diciamo nel dietro le quinte, nel dietro i microfoni. Allora, partiamo dalla chitarra e voce, che è Antonio Biletta. Passiamo alla batteria, Emanuele Recanati. E poi abbiamo le basso e voce, Luca degli Innocenti. C'è la cantante, che è Valeria Videtta, che questa sera sostituisce la cantante, diciamo, ufficiale, che è Sara Berardinucci, che purtroppo non può essere presente per un incidente che ha avuto. Buonasera a tutti, sono Valeria. Ciao Valeria, e poi passiamo alle... Fratello di Sara, Fabio Berardinucci, tastiera e voce. Tastiera e voce, quindi come se avete sentito ci sono tanti cantanti, un po' si passano il testimone durante le serate, a seconda del pezzo. Questa sera... Che cosa proponete? Ma un menù fisso a 15 euro, no scherzo, facciamo... Venite tutti. No, Cucina Antonio. Mario e Monti. No, facciamo il solito repertorio che facciamo per l'estate, quindi musica twist degli anni 60, 50, rockabilly, e poi iniziamo con un po' di musica d'ascolto italiana, quindi Gianna Nannini, Loredana Bertè, Renato Carosone, Toto Cutugno, riarrangiato in chiave anni 50. E poi a salire sarà un crescendo fino alla fine, dove chiuderemo con Il cielo è sempre più blu e Stand by Me. Insomma, una serie di successi intramontabili della musica italiana, del panorama della musica italiana, che comunque coinvolgono il pubblico, fanno ballare, fanno sorridere, fanno ricordare sì. Bei tempi, dipende, no? Dipende pure dall'età del pubblico. No, questo è importante specificarlo, perché poi uno deve arrivare alla serata, come si dice, con il mood giusto, quindi se trovi la serata dove ci sono le persone un po' più anzianotte, senza togliere una delle persone anzianotte, si fa una musica un po' più d'ascolto. Sì, okay. Diciamo che ogni sera una sorpresa. Esatto. Ogni sera una sorpresa, e chi viene ad ascoltare Radio Vintage suppongo che si aspetti una serata movimentata quanto meno. Perché Vintage? Allora, il nome è nato perché, me lo ricordo ancora, io stavo a Roma e ho sentito Sara, che sarebbe la cantante, la sorella di Fabio, al telefono, e noi poi dovevamo fare una serata a Chieti, però una cosa improvvisata con un trio così, e il gruppo si chiamava Soul Vintage. Io di qua c'ho in mente radio, e da lì venne nato Radio Vintage. Quindi come tutti i grandi nomi... E questo è un augurio, no? Esatto. Nascono nei momenti più impensati. Era giugno di 2-3 stati fa, sì. Allora, diciamo che il gruppo intanto è attivo da circa 3 anni, anche se con una formazione diversa rispetto a quella che era iniziale, quindi cambiato qualche componente nel corso degli anni, quindi la vostra adesso comunque è una formazione, diciamo, definitiva. Sì, questa è la seconda estate che giriamo per gli chalet, per le sagre, anche d'inverno suoniamo, diciamo, che prettamente siamo più un gruppo estivo. Qual è la canzone che vi chiedono, perché vi capiterà insomma di avere delle richieste durante le vostre serate, quella che magari vi è capitato di vedervi chiedere più spesso? Despacito. quelle che non facciamo. E Vasco Rossi anche molto. Magari avete... Gelato al cioccolato. Di Pupo. Enzo Di Nazzi. Scritta da Maggiore. Magari avete un repertorio di 10.000 canzoni, ovviamente vi chiedono quella che... Cerchiamo sempre di accontentarli, quindi avendo una buona conoscenza di molti brani tutti quanti, riusciamo sempre a contattarli. Io ho scoperto anche un'altra cosa parlando, poi indagando con qualcuno di voi, uno a caso, Antonio, prima dell'inizio di questa intervista, che tutti quanti siete un po' compositori, sì, no? Quindi voi siete comunque una cover band, fondamentalmente, però ognuno di voi magari ha il pallino della composizione. Perché ancora o è in programma un vostro pezzo o non provate, non so, a tirare fuori qualcosa di particolare? Perché tu siamo una cover, quindi non è... Non avete mai pensato magari al salto? Non è l'obiettivo della band, diciamo, siamo una band prettamente cover, soprattutto estiva, come ha detto Antonio, quindi ci concentriamo su quello e cerchiamo di farlo al meglio. Ok, io ci ho provato per tirare fuori, magari scoprire e fare il nuovo... La birra e i soldi. questa te la potevi risparmiare. Vabbè, poi singolarmente però c'è da dire che tutti noi, diciamo, ci esprimiamo artisticamente con i pezzi inediti. Poi magari un giorno, se riusciamo, sì, se riusciremo, metteremo su qualcosa, e quindi Radio Vintage, cover più inediti. Sì. Quindi comunque, ecco, il concetto è che la musica è dentro di voi. E però è sbagliata nel caso di Antonio, sono una canzone stonata. Antonio dice sempre che le mie battute sono pessime. Concordo. Lo dice a tutti. Lo dice a tutti, ok, perfetto. Sono il miglior battutista della costa. Quindi comunque, ecco, ognuno di voi coltiva il proprio sogno di portare avanti la sua musica e nello stesso tempo cercate di divertirvi, sì, durante l'estate. Era prima cosa. Ok, perché la musica comunque unisce. È un linguaggio universale, no? La prima cosa è divertirsi, infatti quando facciamo le serate l'obiettivo principale è quello, stare insieme e divertirci, e spesso questo divertimento che noi proviamo arriva alle persone che ci stanno ascoltando. Voi avete anche, siete presenti sui social, quindi su Facebook, su Instagram, vogliamo dire, ricordare l'indirizzo delle varie pagine? Sì, su Facebook ci trovate come Radio Vintage, semplicemente. Su Instagram come Radio Vintage Party Band, tutto attaccato. Quindi... E quindi ci sono le foto, insomma, dei momenti, sì, catturati? Pubblicizziamo tutti gli eventi, ogni tanto mettiamo anche qualcosa di divertente, qualche stupidaggine, insomma. E quindi... Beh, le stupidaggini fanno sempre bene, alleggeriscono. E mi viene in mente adesso di chiedervi qual è stato, se c'è stato, un episodio particolarmente divertente durante una delle vostre tante serate. Sì, abbiamo un pozzo di episodi, Emanuele. Ah, perfetto. Ha una vita fantastica, però è come un episodio che ti è successo durante... Emanuele, scava allora, nel tuo repertorio, allora, nel tuo archivio. Un episodio bellissimo è stato quando... ho lanciato per un momento di sfogo delle bacchette così nel nulla, però non ho preso nessuno, almeno ero particolarmente nervoso per fatti miei, allora mentre suonavo avevo voglia. Però un paio di bacchette in più, cioè sì, non è che ha lanciato quelle cose. Mentre suonavo, continuavo a suonare mentre facevo in pratica tipo giocoliere. Ok. E vabbè, questa era simpatica, però non ho riso io, hanno riso gli altri. La bacchetta volante, quindi la serata della bacchetta volante. Poi voglio raccontare Fabio che ogni tanto si assenta durante le performance. No, è una volta sola, poverino. È scappato, si è perso... Causa forza maggiore durante il brano. Sono dovuto scappare per cause di forza maggiore. C'è un momento nella vita di ognuno in cui si deve correre, vero? Noi abbiamo un lungo mid twist. Sì. Fabio è dovuto scappare per cause di forza maggiore. Quando è tornato, Luca... Ha detto il microfono alle tastiere, Fabio Berardinucci. No, sono tornato un brano, dico. In contumacia. Un altro episodio epico. Vai. Ma era Capodanno. Sì. Il batterista, cioè io, arriva in ritardo. Sta parlando in terza persona. Arriva in ritardo. Plurale maiestati. Avremmo dovuto iniziare la performance 10 minuti prima. Allora ho detto, ma come faccio, cavolo? Qua l'orario è questo, è tutto, dobbiamo essere puntuali. In pratica io arrivo, loro già stavano suonando. Antonio, il mago, stava suonando la batteria e hanno risolto il primo brano senza di me. Poi mi sono seduto senza interrompere la canzone, mi ha passato le bacchette e continuavamo e ho ripreso il brano e lui è tornato alla chitarra. Per dire in inglese, potevamo stupirvi with special effect. Non ho mai sentito. Beh, in inglese. È anglo-rosetano questo. E come promesso con la battuta finale per la contentezza di Antonio. Ascoltatori di Radio Cerrano. Salutiamo i Radio Vintage, qui chi fosse in ascolto può raggiungere questa sera al Lido Bellavista, perché insomma la serata si protrarrà insomma anche un po' più in là, tra poco iniziamo, fino a tarda sera, quindi per passare una piacevole serata. E mi raccomando, seguiteli sui social, su Instagram. A presto ragazzi, in bocca al lupo, grazie, salutate, grazie. Ciao. Ciao a tutti.